delfino forestiero, faccio il buio sul sentiero su, che ci costa? Nel veliero senza un faro, tu portiere di un corsaro su, che ci costa? Tu pensiero passeggero, io quel cielo che non piove mai, non ci costa niente dai, non ci costa niente poi. Accostare sogni ad una pozza, nella grotta dentro un fiume, tu la torcia di un barlume su, che ci costa? Nel bagliore clandestino, io la brocca e tu il bombino su, che ci costa? Sotto l'ombra sulla cresta, verso un mare che non basta mai. Sai, non ti costa niente, puoi appoggiare il cuore alla mia costa. Nella pace e nel frastuono brucia il lampo, straccio il tuono, dai, che se vento soffierai, quando mi sventolerai, fallo senza sosta, senza fiato né respiro, monovolta mezzo giro, dai, non ti costa niente, sai, e se forza più non hai, sui miei desideri freni a costa. Sabbia che ci stanca, un uragano ed io la spiaggia da.